Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In giro per bar con Andrea G. Pinkens. Il viaggio di oggi lo affrontiamo con uno spirito diverso. E non ho detto spirito a caso. Siamo infatti in giro per i bar dove Andrea G. Pinkens trova ispirazione per scrivere. Quante volte è capitato anche a voi di chiedere foglio e penna per annotare un pensiero mentre sorseggiavate un bicchiere di vino? I più audaci di voi avranno usato i tovaglioli. I più organizzati girano invece col taccuino in borsa. Ma vediamo insieme al mio compagno di viaggio quanto questo luogo abbia di sacro. Il termine bar deriva da una contrazione del termine inglese barrier, cioè sbarra. Infatti all'epoca della prima colonizzazione dell'America del Sud, l'angolo riservato alla vendita degli alcolici nelle osterie o nelle bettole era per l'appunto diviso dal resto del locale da una sbarra. Da qui l'uso del termine bar sia per intendere l'angolo in cui i liquori vengono serviti e consumati, sia anche il locale stesso. Altre fonti indicano che il termine derivi dalla contrazione del termine barred, che significa sbarrato, in quanto nel XIX secolo, nei periodi in cui in Inghilterra era proibita la vendita di bevande alcoliche, sulle porte degli spacci venivano inchiodate delle assi, sulle quali questa parola veniva pennellata con la calce. Il bar per me è un luogo di lezione. C'è gente che scrive, non so, pensa a Leopardi che scriveva di fronte alla casa di Silvia, era assolutamente onanistico, masturbatorio in senso negativo. Invece della roccaforte io preferisco i luoghi affollati, i luoghi in cui senti la musica magari dal vivo, ma anche la musica della vita, la musica della gente, la musica che producono gli applausi al musicista che si esibisce dal vivo, ma anche i fischi di approvazione sui sederi delle ballerine. Quindi è una musica totale, forse è la musica del sociale. E allora lì la bravura è proprio che questo è un viaggio assolutamente interno. La bravura, cioè bravura, bravura nel senso di brave, coraggioso. Il coraggio è infilarsi in un luogo del genere e riuscire improvvisamente ad avere un'astrazione totale, per cui riesci a captare tutto ciò che ti viene inevitabilmente proposto, immesso, contrabbandato per realtà, e isolarti. E in quel momento tu riesci a scrivere perché sei contaminato, ma sei contaminato e nello stesso tempo purissimo. Niente male come inizio. Mi sento di alzare il bicchiere e brindare con lui, come se fossimo seduti allo stesso tavolino. E allora tu pensa che Noè, dopo che ha ricevuto la notizia del diluvio, dopo aver fatto tutto quello che sappiamo abbia fatto, improvvisamente decide, quando trova questa futura terra, questa terra, non dico promessa perché questa è un'altra storia, ma una terra ferma rispetto alle acque del diluvio, cosa fa? Crea un altare per ringraziare Dio di averlo risparmiato dal diluvio e successivamente pianta una vigna, da che è evidenziato da mio stesso modo di vivere che ci sono due opzioni: o l'altare, quindi fondare la chiesa, Noè fonda la prima chiesa, se vogliamo, nella terra salvata dal diluvio, o piantare una vigna che diventerà successivamente osteria. Io tra la chiesa e l'osteria ho scelto l'osteria, perché ha qualcosa di altrettanto sacro e di sacrale. È qualcosa che è sopravvissuta al diluvio. Sia la chiesa che l'osteria, che poi diventerà bar, diventerà quello che vuoi, diventerà non sono un posto da happy hour, comunque sono dei luoghi di aggregazione. E allora non c'è niente di meglio di studiare il resto dei propri contemporanei in un luogo di aggregazione. Solo che in chiesa non si può fumare, neanche nei bar in realtà, ma nei bar dove vado io sì. Con me tu puoi fumare la tua pipa quando vuoi, perché mi piaci molto di più e sei così romantico. L'accostamento del bar alla chiesa è il minimo che ci si può aspettare da un personaggio come Pinkett. E allora rincaro la dose. Se in chiesa non si può fumare, come ha detto lui, si può però bere vino, aggiungo io, solo che lo può fare solo il prete. E vedi, questo è già appunto un privilegio, appunto, come dire, ecclesiastico. Invece il bar è più ecumenico, se vuoi, abbraccia chiunque, abbraccia le idee. C'è una commedia di Mary Chase che si chiama Harvey, non so se ve la ricordate, perché c'è, da cui è stato tratto un bellissimo film con Jane Stewart, in cui c'è questo psicotico ma assolutamente innocuo, addirittura giocoso, poetico, che immagina di avere come proprio migliore amico un coniglio gigante, un coniglio di 2 metri che si chiama Harvey. E allora lui ogni volta che va al bar offre da bere a Harvey, oltre a ordinare per se stesso, offre da bere a Harvey, chiedendogli: Harvey, cosa prendi? I baristi che lo conoscono ormai sono abituati e alla fine credono anche loro all'esistenza di Harvey. E questo è il punto. La frase fondamentale è che Harvey è un coniglio gigante e nessuno porta nulla di piccolo in un bar. Nel senso che nel bar tutte le storie vengono amplificate, tutte le piccole storie quotidiane diventano leggende, uno schiaffo diventa una rissa, un bacio diventa un'orgia. Il bar amplifica, è un amplificatore assoluto. Che cosa fate, signor Daut? Oh, vado con Harvey nei bar, beviamo qualcosa, ascoltiamo la pianola, e allora i visi di tutta quanta la gente si voltano verso di me e sorridono, e poi dicono: noi non vi conosciamo, amico, ma siete un gran simpaticone. Harvey ed io ci sentiamo come riscaldati in quei momenti. Siamo entrati come estranei e ci troviamo fra amici. Ci vengono vicino, si siedono, beviamo insieme e parlano con noi. Ci dicono delle immense, terribili cose che hanno fatto, delle immense, stupende cose che faranno. Le speranze, i rimpianti, gli amori, le avversioni, tutto immenso, perché nessun uomo porta mai niente di piccolo in un bar. Infine, io li presento ad Harvey e lui è più grande di qualsiasi cosa che gli altri offrano a me, e quando se ne vanno sono molto impressionati. Impressionati anche noi da questo inizio di puntata, facciamo una pausa. E chi meglio di Vinicio Capossela può tenerci compagnia? Lui che ha detto che i bar non portano ricordi, ma i ricordi portano inevitabilmente ai bar. Come in sogno la macchina scivola via, la bocca che sa di fumo, di vino, di baci a venire, di frenesia. E la pianura si è vestita di luci gialle nella foschia, la provinciale si fa scintillare, tutti corrono anche se non si sa mai dove andare. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In giro per bar con Andrea G. Pinkez. Siamo al bar con Andrea G. Pinkez. È qui che nasce l'ispirazione per lui. Niente siepi di leopardiana memoria a chiudere lo sguardo per immaginare l'infinito. O, come dice lui, nessuna casa di Silvia dove il poeta si lasciava andare a un atteggiamento onanistico verso la scrittura. Ma è il bar, il luogo dove mio accompagnatore riesce a farsi contaminare dal rumore e dalla gente, rimanendo allo stesso tempo purissimo. Cerco di visualizzare Andrea al tavolo di un bar dove scrive. Niente tecnologia nelle sue mani, non so perché me lo vedo con carta e penna. La penna è la lingua dell'anima, diceva Cervantes. Credo che lo stesso valga per Pinkett. No, allora avviene che io mi porto giro sempre carico di borse piene di libri, fogli, e scrivo con delle Mont Blanc. Le Mont Blanc da collezione, quelle dedicate agli scrittori, non so, c'è la Schiller, c'è la Mark Twain, c'è la, non sto facendo uno spottone alla Mont Blanc, sono le penne che uso io, e le uso proprio perché a seconda di ciò che sto per scrivere, credo che la penna sia per me, siccome io non uso il computer, infatti adesso mi trovo in un certo imbarazzo a comunicare con te tramite questo affare che mi trovo davanti, ma comunque è come il pennello per un pittore, la penna per uno scrittore vero, è come il bisturi per un chirurgo, è uno strumento imprescindibile della propria creatività. Poi ho un foglio bianco, poi ho un sigaro, una birra, e inizio ad affrontare il viaggio, parlavamo di viaggi, nel vuoto. Il vuoto che ti viene inevitabilmente proposto da un foglio bianco. Nel momento in cui il viaggio inizia, ti fermi solo alle, come dire, stazioni di servizio. Nel senso che quando ti rendi conto che stai scrivendo oltrepassando il limite della tua intenzione di scrivere, tutto ciò che stai scrivendo diventa superfluo. Quindi un giorno puoi scrivere 20 pagine, un giorno una riga sola. Devi avere il controllo totale del tuo viaggio all'interno della pagina bianca. Scusa, nel frattempo sono riuscito a ribaltare il microfono. Un foglio bianco, molta solitudine, qualche strappo al cuore, forse una guerra o due. Quanto ci stanno bene i versi di Alda Merini dopo che Pinkett ha finito di raccontare la sua poetica della penna e della pagina bianca ribaltando il microfono. Chiedo se quando entra in un bar avverte subito la sensazione che quello sarà il posto giusto dove scrivere. Allora, assolutamente no, però è altrettanto vero che io sono un sacerdote laico, quindi non nel senso cattolico del termine, proprio nel senso apostolico, nel senso che ho degli apostoli. Tra poco ti presenterò il maestro Zach, il mio musico che mi accompagna nelle mie scorribande, ma c'è una bellissima frase di Bernard Shaw che io riconosco come se fosse mia, che dice: io sono un predicatore travestito da saltimbanco. E allora l'idea del saltimbanco significa anche passare di luogo in luogo. Quindi non, cioè, il rito può essere celebrato nella... Io scrivo alle trottoir, giusto per citare un locale in cui potete venirmi a trovare. Ma ho scritto in Romania, ho scritto ad Alassio, ho scritto a Marsiglia, ho scritto in luoghi in cui riuscivo a riconoscere quella sacralità laica che corrispondeva al mio grande senso di scrivere da Dio. Oh, I'm just a gigolo and everybody knows. The people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Every night some heart betraying. Proseguiamo in questo viaggio nei bar dove Andrea G. Pinkett scrive. Nella sua Milano ci ha appena detto che le trottoir è quasi casa. Mi viene allora la curiosità di sapere se, quando vai in una città nuova, c'è un modo per capire, selezionare e scegliere il tavolino dove estrarre carta e penna e farsi attraversare dall'ispirazione. Mentre formulo la mia domanda, ho l'ardire di confondere osteria con bar. No, allora, non chiamiamole più osterie, chiamiamoli bar, pub, quello che sono. No, perché osteria dà un'idea medievale, forse, della cosa. In realtà, quando tu arrivi in una città che non conosci, hai come, perlomeno così capita a me, hai come una bacchetta da rabdomante che ti porta, dicevo alla sarda, ti porta in un luogo, questo te l'ho detto al milanese, Carlo Porta, vedi, aperta, ti porta in un luogo che è inevitabilmente lì che ti sta aspettando. Tu scegli lui, ma in realtà è lui che sta chiamando te. E capisci che in quel posto ti puoi mettere a scrivere e altrove no. Generalmente non sono i luoghi prevalentemente turistici. Cioè, se uno va a Cuba, io per dirti, con Paul de Sury a Cuba abbiamo scritto un libro sulla mistica del sigaro, intervistando i grandi esperti di sigaro della Habana. E per dirti, lì non vai alla bodeghita del meglio perché ci vanno i turisti. Tu devi essere veramente un turista di te stesso, un esploratore, anzi forse di più, uno speleologo di te stesso nel momento in cui decidi qual è il luogo in cui iniziare a entrare in ogni tua cavità per arrivare all'anima. Un bar da turisti è quindi da evitare per avere l'ispirazione, secondo Pinkett. E che dire allora di quei bar che sono diventati poi meta di turisti, magari perché degli scrittori ne hanno fatto a suo tempo una seconda casa? Penso a quello che oggi si chiama Habana Central, il bar di fronte alla Columbia University, dove è nata la storia della Beat Generation americana. Allora si chiamava West End Bar. E sui tavoli di legno incidevano il loro nome, Allen Ginsberg, Jack Kerouac e William Burroughs. Sarà anche da turisti, ma l'emozione di consumare un caffè dove è nato il poema Urlo, vogliamo farcela scappare? Ho visto le migliori menti della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, isteriche, nude, trascinarsi per strade di negri all'alba, in cerca di droga rabbiosa hipster testa d'angelo. Bramare l'antico spaccia paradisiaco che connette alla dinamo stellare nel meccanismo della notte. Ho visto le migliori menti della mia generazione che mangiavano fuoco in hotel ridipinti o bevevano trementina in Paradise Alley. Morte. O si purgatoriavano il torace notte dopo notte con sogni, con droghe, con incubi a occhi aperti e sballi senza fine. Ho visto le migliori menti della mia generazione che vagavano su e giù a mezzanotte per depositi ferroviari chiedendosi dove andare e andavano senza lasciare cuori spezzati. Ho visto le migliori menti della mia generazione che trombavano il limousine col cinese di Oklahoma su impulso invernale mezzo notturno in lampionata pioggia di provincia. Ho visto le migliori menti della mia generazione che ciondolavano affamate e sole per Houston cercando jazz o sesso o zuppa e seguivano quel brillante spagnolo per conversare d'America ed eternità. Non t'ho vista più all'Hemingway Caffè Latino, Vigna Belzebù, ombre non sei sportivo, ma il mio cuore piange al ritmo del fungo, e la bestia che si agita in me sta abbottandosi di uova di lombo e chardonnay. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In giro per bar con Andrea G. Pinkett. Scrivere ad Andrea G. Pinkett viene bene nei bar. Qui può bere, guardare la gente, fumare, perché nei bar dove va lui si può, parola sua, estrarre la penna che più si confà all'attimo dell'ispirazione e scrivere. Sì, lui ha diverse penne tra le quali può scegliere. Dai, Andrea, consiglia qualche bar agli ascoltatori. Qui mi spiace deluderti, ma io frequento bar poco raccomandabili, quindi non vorrei che i tuoi ascoltatori poi si trovassero in situazioni imbarazzanti a causa tua e mia. Posso dirti un locale di Laigueglia invece, che non è assolutamente pericoloso. Si chiama il Saloon, nel budello di Laigueglia. Io l'ho scoperto per caso nel 97, me la stavo facendo a piedi da Alassio a Laigueglia, sono entrato in questo bar di cui non conoscevo l'esistenza e erano già le 2 del mattino e c'era un ciccione svizzero alto 2 metri che stava facendo una gara che consisteva nel prendere con le narici un bicchierino di vodka al fico, passarselo sulla bocca e poi ingollarselo. Quindi il bar era costellato da tutti questi bicchierini. Ovviamente il bestione svizzero era il campione diciamo regionale della specialità. Io sono entrato con l'idea di farmi una birra alle 2 del mattino, ho visto questa sfida, l'ho accettata e naturalmente ça va sans dire, l'ho vinta, anche perché questo si era già scolato 40 grappe, poi sono veramente dei piccoli shot proprio che costellavano il bancone. Il discorso interessante è che chi mollava doveva pagare le bevute di tutti gli altri, ragion per cui era obbligatorio vincere, anche perché non avevo più soldi per il taxi per tornare al residence che mi ospitava. E io ho sconfitto questo campione regionale, questo svizzerone col quale poi siamo diventati amici, che è crollato al suolo giusto un secondo e mezzo prima che crollassi io. E questo è il Saloon di Alassio. Sfide alle quali è difficile dire di no, me ne rendo conto. Del resto si studiano tutte per superare l'ostacolo della pagina bianca. Ma questo bar, mi chiedo timidamente, è entrato in qualche libro? Sì, beh, ad esempio lì ho ambientato Fuggevole Turchese, che è ambientato tra Laigueglia e Alassio. All'obitorio di Savona ho ambientato Nonostante Clizia, a Marsiglia parte dell'ultimo libro di Mondadori che si chiama Depilando Pilar, ma la città centrale delle mie storie è Milano, poi ci sono degli spostamenti, per ogni luogo ti regala un incontro, un'emozione, un diversivo, un guaio persino. Sono luoghi in cui io non posso più mettere piede. Mi parla di Hong Kong, dove all'età di 18 anni ha avuto una disavventura che coinvolgeva niente meno che le mafie cinesi. Ma ha mai scritto di questo? No, quindi io ho girato abbastanza, però queste storie non le racconto perché queste le ho vissute forse nel momento in cui non bisognava raccontarle attraverso la scrittura. Sono cose che ti rimangono dentro, invece devi raccontare le cose che stai vedendo, parlare del passato per certi versi ha senso ma per altri no. Il passato è già nella persona che è il protagonista delle tue storie, lui le sa, tu no, tu lettore non le sai, ma lui le sa, te le può raccontare, ma goccia a goccia, proprio svenandosi, ma molto molto lentamente, perché ogni personaggio nasce come se fosse nato in quel momento, anche se ha 90 anni il personaggio che racconti e sai che ha 90 anni, nel momento in cui nasce novantenne. poi se si vuole svelare, se vuole raccontare delle sue storie precedenti, è inevitabile che prima o poi ci caschi. Cameriere, un aperitivo per favore. Subito, signore. Prendi per me. Va bene. E per lei? Rabarbaro Blues. Bottiglie scintillanti, bicchieri tintinnanti, come invidio i tuoi clienti, ma per me è bar, un rabarbaro blues. Visto che il bar è un luogo sacro per Andrea e la sua scrittura, gli chiedo se la sua ricerca di nuovi posti non si ferma mai. No, no, la ricerca no, però per dirti, io ho vinto il premio Scerbanenko più volte a Lignano Sabbiadoro, che era il luogo in cui Giorgio Scerbanenko, che è il massimo, finirei persino poeta del noir italiano, lui scriveva in questo bar che si chiama Il Gabbiano, e lui tra l'altro era russo di nascita e milanese di adozione, ma aveva in questa Lignano Sabbiadoro della fine degli anni 50, inizio anni 60, quindi una città inventata, una città che non esisteva, una sorta di Las Vegas nel deserto, se vogliamo, lui scriveva al Gabbiano. E allora tutte le volte che vado a Lignano Sabbiadoro mi fermo proprio al Gabbiano e chiedo al tavolo in cui, con vista mare, che è un bar normalissimo, non è l'Harris Bar di Venezia, è un bar da mare praticamente, e da amare anche per ovvi motivi, chiedo proprio la postazione di Giorgio Scerbanenko, e se non mi viene in mente nulla da scrivere è assolutamente umiliante. E io penso a Fernando Pessoa e al caffè a Brasileira di Lisbona, dove lo spettacolo che si offriva agli occhi del poeta portoghese era fonte di ispirazione. Ancora oggi la sua statua di bronzo resta seduta al tavolino, le gambe accavallate, davanti all'ingresso. Sento quasi il profumo del caffè. A proposito, c'è qualche odore particolare che attira Pinkets nei bar? Ma vedi, secondo me c'è una differenza sostanziale. Quando c'è l'odore posso anche evitarlo. Scelgo i bar in cui sento il profumo della storia che decido di raccontare. Un profumo è il profumo del luogo che senti che ti chiama, che è un profumo di qualcosa che forse hai già vissuto ma non nello stesso luogo. Quindi c'è la riconoscibilità di un posto sconosciuto, di un altrove che magari hai frequentato precedentemente. Non parlo di, vabbè, sarà che faccio un mistero, adesso mi stanno rimbambendo con queste cose di metempsicosi, reincarnazioni delle unghie e tutto il resto. No, ma in realtà che ci sono dei luoghi che ti chiamano, dei luoghi deputati a farlo. E allora, siccome io, pur essendo un supereroe, sono anche tutti gli eroi, ho bisogno di sostegno, no? Morale, fisico no, morale, mi porto sempre dietro il maestro Zac, che vorrei presentarti, qui presente. Bene, l'ultima parte del viaggio mi sembra di capire si farà in tre. In fondo, quando ci si siede al tavolo di un bar con una personalità esuberante come Andrea G. Pinkets, il minimo che possa succedere è che qualcuno venga a sedersi con noi. E allora ordiniamo una birra. Poi 8 gradi e mezzo all'ombra, non piove più da 20 giorni e non c'è un alito di vento. Tanto caldo, quanta sete, ya ya ya. Portaci da bere uno shot di birra, ma presto. Portaci da bere uno shot di birra, ma fredda, con o senza schiuma, scura chiara, ma che sia una birra. Una birra, please. Oh yes. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In giro per bar con Andrea G. Pickens. Siamo alla fine della passeggiata nei bar che hanno dato ispirazione ad Andrea G. Pinkett. Abbiamo fatto delle escursioni anche in quei bar dove altri scrittori e poeti hanno scritto e composto. A un certo punto, al nostro tavolino virtuale, si è seduta anche un'altra persona. Andrea ci teneva a presentarmela. Maestro Zach è il mio musico, è il mio palafreniere, il mio scudiero, ma è anche il mio scudo termico e terminale, forse. Terminale spero di no. Oh, eccomi qua. Domanda. La domanda è abbastanza ovvia. Cosa significa essere il musico di Andrea? Musico di Andrea significa suonare le canzoni che vadano bene con lui, vadano bene col suo personaggio. Per esempio, una volta lui nel 2005 mi ha chiesto, dietro un bicchiere di birra e dietro un Cuba Libre, mi ha chiesto: perché non mi componi qualcosa? Così. Allora io ho composto musica e parole. Poi io gli ho fatto sentire la musica, andava bene, le parole le ha modificate lui praticamente. Ora il dialogo si fa conversazione. Pur non essendoci bicchieri di vino a tenerci compagnia, c'è una strana euforia. Sarà che anche solo a parlarne il bar inebria. Come Tex Wheeler, Kit Carson, Zago, Re Cico, Don Quixote, Sancho Panza. E lui mi porta in giro nelle serate, nella notte milanese. Lui è un grandissimo, tra l'altro, cabarettista, autore, libero pensatore, e quindi è bello avere una sorta di fido scudiero, così, capito? Non abbiamo nessun rapporto, non vorrei che fraintendesse qualcuno. Posso un attimino fare. Si vede? Come si vede? No, la pacca sulla spalla si vede. No, perché tanto siamo in radio, quindi gli ho dato una virile pacca sulla spalla senza implicazioni. È sempre più difficile tirare avanti questo show. Mi fanno male i piedi a furia di ballare. Un pediluvio nel tuo cuore mi concederò. Bimba, se sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia. Guarda che mestiere che mi tocca fare. Io con questa faccia ne ho passato da dimenticare. Siamo io, Andrea G. Pinkett e Zach al tavolo di un bar. Si parla di ispirazione. Per quanto riguarda i libri, abbiamo già visto come avviene, facendosi attraversare da tutto rimanendo purissimi, ha spiegato Pinkett. E per la musica, che cosa succede? Certo, ma nella composizione musicale tutto ispirazione. Il bar è poi una cosa che molto dà ispirazione al silenzio, perché la musica parte dal silenzio. Per lui, per me è al contrario. Mentre assisto divertita all'allegra sceneggiata tra lo scrittore e il suo musico, cerco nella memoria un bar dove sia stata composta della musica ispirata più dal rumore di vita, come sostiene Pinkett, che dai silenzi, come dice Zach. Ed ecco che mi vedo Tom Jobim e Vinicius de Moraes seduti al Caffè Veloso, ora Caffè Ipanema, interessati a una certa Elo Pinheiro, una ragazza bruna che si fermava tutti i giorni al bar a comprare le sigarette. Dai, Zach, ci sarà pure un bar dove, artisticamente parlando, ti trovi bene. Nessuno pretende che si arrivi alla poetica dei due brasiliani, ma qualcosa ci sarà anche da queste parti che può far sognare e comporre. La pistone. Per esempio, sì, esatto, me l'ha ricordato lui. Io e Pinkett frequentiamo un bar a Crema che si chiama Barcelona Café. Barcelona Café, il cui proprietario è un certo Marco Pistone, che è un esperto di cocktails, un barman, un grande barman. Da lui, sì, mi vengono molte ispirazioni, perché è un bel posto, veramente, è un posto dove c'è bella gente, si mangia bene, si beve bene, c'è gente simpatica e là ci vado sempre volentieri. Ma poi è un luogo di incontro che crea veramente delle serate ad hoc, e Marco Pistone, che è veramente un grande barman, ha creato un cocktail che ha il mio nome, un cocktail molto elaborato. Io sono un fumatore di sigari, tra l'altro, e lui è riuscito a far sì che all'interno di questo cocktail ci fosse del sigaro, senza turbare la chimica o la chimia della creazione. Se ho il permesso di parlare un attimo, l'ultima volta che poi dobbiamo andare. C'è il fatto anche che al Barcelona Caffè bevo e mangio e poi gentilmente mi offrono anche. Vabbè, adesso non devi fare pubblicità, cosa. Comunque il cocktail ve lo segnalo, cioè, allora il nostro amico è crema, ma il cocktail si chiama, tieniti forte, 2 di Pinkett, che è tutto un programma. Depilando Pilar, 4 chiacchiere al bar, tutto il resto è la vita. Depilando Pilar, che ti fa ricordare la discesa in salita. Il bar è entrato dentro allo studio di registrazione. Niente può più fermare i miei due ospiti. Mentre Pinkett intona la canzone scritta da lui e musicata da Zack per il suo ultimo libro, cerco di rendere omaggio a tutti i bar e a tutti gli scrittori e poeti che vi hanno scritto. Una frase di Pessoa è certamente la scelta migliore. Ripassa domani, in realtà. Basta per oggi, signori. Non c'è niente da fare. Le depilo la vita. Ora Andrea G. Pinkett è in libreria con Depilando Pilar, edito da Mondadori. Un'altra volta bionda, la serata sta finendo e servi la mia birra dietro il bar. Negroni, whisky, coco, un campanino con la soda e il ghiaccio frigo rusco. C'è da cambiare pure il fusto. Il cliente già servito e la cassa registrato. L'ultimo drink all'avvocato. Ah, se passasse così in fretta come ora che è finita questa serata maledetta. Per 50.000 lire un altro giorno da finire tra negroni, whisky, trucco, un arghile con il tabacco.